Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9 e 5 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it, sms al 349 238 6666. Devi dirle che quelli sono amici buoni, nel senso che è gente abituata a un certo livello. Non è che gli puoi mandare le cesse, non le hanno mandate indietro per una questione di rispetto. È una delle intercettazioni contenute nelle 2000 pagine dell'inchiesta Apoteche, una inchiesta della Procura di Roma, 85 indagati, 44 gli arresti. A parlare e a dire queste parole è un informatore scientifico che si lamentava con il proprietario di una ditta che produce e distribuisce farmaci. Non gli puoi mandare mica le cesse. Eh sì, perché la truffa al sistema sanitario nazionale funzionava più o meno così. C'era questo imprenditore che aveva interesse a veicolare dei farmaci, c'erano degli informatori medici che li promuovevano, dei medici compiacenti che li prescrivevano facendo ricette a pazienti ignari, spesso utilizzando anche ricettari di colleghi medici, anche loro ignari, spesso utilizzando pazienti morti per fare loro le ricette. C'erano dei farmacisti compiacenti anche loro che avallavano i rimborsi applicando sui moduli le fustelle dei farmaci che poi venivano buttati nel cestino. Questa la ricostruzione, ovviamente, della procura, tutto in cambio anche di un giro di squillo, ma mica dei cessi, come si lamentava quell'informatore scientifico nell'intercettazione. Risultato, come detto, 44 arresti, 88 persone indagate, un giro presunto di ricette false, secondo la procura, che coinvolge diverse regioni, almeno 10 milioni di euro di truffa al sistema sanitario nazionale. E non è solo che l'ultimo caso. La sanità, sappiamo, quel buco che si mangia miliardi di euro l'anno, dove truffare purtroppo forse è troppo facile per il controlli, per gli scarsi controlli del sistema, dove a pagare siamo ovviamente noi contribuenti, dove ci sono regioni che poi sono al collasso dal punto di vista finanziario per i buchi nella sanità, dove, come scriveva di recente Carla Massi sul Messaggero, c'è il paziente fantasma di Catania che ha goduto dell'assistenza medica per 35 anni, ci sono i 19 medici di Bari denunciati a ottobre perché curavano 450 morti viventi, c'è quell'uomo che per 25 anni ha continuato ad essere burocraticamente vivo nell'ASL 6 del Palermitano, c'è quel medico di base pugliese agli arresti domiciliari perché imbrogliava sul numero delle visite che diceva di aver fatto alle case dei pazienti, ci sono quei 50.000 e più casi di pazienti morti nella regione Sicilia che risultavano ancora iscritti nelle liste dei medici di base per la quale si pagavano i contributi. Di scandali, troppi scandali nella sanità, a partire dall'ultimo che è emerso proprio l'altro ieri a Roma, vogliamo parlare oggi. Saluto gli ospiti, a cominciare dal professor Silvio Garattini, che dirige l'Istituto di Ricerche Mario Negri, e buongiorno di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Così come voglio salutare il dottor Fiorenzo Corti, che è responsabile della comunicazione della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia. Benvenuto Corti. Buongiorno. E saluto anche Sergio Tartaglia, anche lui fa parte della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia nella regione Lazio, ma soprattutto è membro della commissione di controllo appropriatezza prescrittiva dell'ASL Roma C, lì dove insomma è nato tutto dai controlli e poi è partita l'indagine. Buongiorno dottor Tartaglia. Buongiorno. E benvenuto. Alle 9 e 10 minuti, partirei proprio dal dottor Tartaglia, come detto fa parte della commissione di controllo appropriatezza prescrittiva dell'ASL Roma C. Dottor Tartaglia, proprio in questa commissione è nato un po' il tutto, nel senso, possiamo farlo risalire a che cosa? A una serie di controlli che vi hanno fatto un po' sobbalzare sulla sedia, e di che tipo? Sicuramente. Diciamo che la Roma C ha iniziato una politica di controlli da molti anni. Diciamo, nei controlli avvenuti tra 2002, 2004, 2005 emergevano nei report, spieghiamo un attimo che cosa sono i report, ai medici viene dato ogni certo periodo, diciamo ogni 6 mesi nel nostro distretto sanitario, un report in cui il medico vede rispecchiata la propria attività prescrittiva. In questi report i medici riconobbero farmaci mai scritti da loro, e con imputazioni di spese e di budget piuttosto onerosi al loro carico. Cioè, ci furono molti medici che, ricevuto il report, dicevano: ma io questi farmaci non li ho mai prescritti. Com'è questa storia? Beh, sì, diciamo che c'è stata sorpresa e indignazione, anche perché oggi il medico è sempre al centro, diciamo, di critiche per come scrive, per la propria appropriatezza, e quindi il medico che si vede attribuire una spesa non propria sicuramente è indignato, ma soprattutto questa indignazione ha portato i medici stessi a scoprire, diciamo, aiutare a scoprire le istituzioni in raggiro, nel sì. senso che hanno chiesto di vedere le ricette emesse. E sostanzialmente si è scoperto che c'era... Le ha tirati fuori, perché deve sapere che, forse non tutti i cittadini lo sanno, c'è un sistema informatico nel Lazio abbastanza avanzato che fotocopia, diciamo, in modo informatico tutte le ricette emesse, diciamo, da tutti i medici. Per il momento medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, adesso si stanno tracciando anche gli specialisti degli ospedali e delle altre strutture. Veniamo a che cosa si è scoperto. Sostanzialmente qualche medico, uno, due, qualcuno, insomma, che è poi al centro dell'inchiesta, che ora pare abbia iniziato anche a parlare, certo. Che cosa ha fatto? Ha iniziato a, per esempio, a chiedere, a dire: ho perso il ricettario, esatto. Ho perso diversi, diciamo, ricettari, me ne servono altri 20, 30 o 40. Perfetto, benissimo. E c'era un certo soggetto che a un certo punto, ma come altri in Italia, in provincia di Viterbo, in Sicilia e in altri posti, denunciavano la scomparsa o il furto dei propri ricettari, prendendo una quantità più grande del normale. Bisogna pensare che allora i ricettari non avevano il nome col codice a barra del medico come oggi. Sì, e quindi era più facile, era più facile dargli un nome. E questi nomi venivano, chiaramente queste ricette venivano attribuite a pazienti o morti o di fantasia. I medici quindi si stupirono di questo fatto e ebbero la possibilità di disconoscere la propria firma, i propri farmaci. Sì. Prescrizioni mai fatte, insomma, diciamo che da qui è nata questa mega inchiesta che coinvolge, ripeto, alcuni medici che hanno prescritto per altri colleghi ignari e hanno prescritto per pazienti morti dei farmaci, perché c'era un imprenditore che li voleva distribuire, perché c'era un informatore scientifico che promuoveva il tutto, perché c'era il farmacista compiacente che dava questo farmaco. Il tutto ovviamente farmaci di fascia A, quelli totalmente rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale, che poi alla fine si chiama così, ma andando a vedere siamo noi che paghiamo con le tasse. Professor Garattini, la stupisce questa inchiesta o è solo l'ultima delle inchieste di questo tipo? Ma le inchieste di questo tipo ce ne sono state tante e questa, diciamo, è la parte illecita del problema, insomma. Io credo che lì bisogna lasciar fare la giustizia, la quale determinerà cosa c'è e cosa non c'è. Quello di cui noi possiamo occuparci di più sono invece un po' delle regole generali che esistono e che in qualche modo possono facilitare poi molte di queste attività. Non bisogna dimenticare che i medici sono sottoposti a un grande bombardamento di informazioni ogni giorno. Ci sono 25.000 informatori farmaceutici che partono al mattino, devono visitare 8 medici o 10 a seconda dei casi. E questo vuol dire che ogni giorno ci sono qualcosa come 200.000 contatti che evidentemente sono fatti per spingere le prescrizioni, per cercare di aumentare le ricette, per cui aumentano poi le vendite. Questi informatori sono poi remunerati non sulla base della loro capacità di fare informazione, ma sulla base dell'aumento delle vendite. E bisogna anche dire che diciamo, questo bombardamento non può essere senza risultato, perché altrimenti le industrie farmaceutiche non spenderebbero certo queste grandi quantità di denaro per fare un lavoro che non comporta aumento di prescrizioni. Cioè, sostanzialmente è un sistema nel quale funziona molto il marketing. Tra l'altro ci sono, esatto, ci sono troppi informatori farmaceutici, informatori scientifici, secondo lei? Ce ne sono, se paragoniamo anche con altri paesi, ce ne sono certamente parecchi informatori in Italia. Poi lì bisognerebbe mettere, secondo me, molto più ordine, perché poi questi informatori invadono gli studi medici e in qualche modo portano via anche tempo ai pazienti che stanno negli ambulatori, perché molto spesso il medico li deve ricevere e quindi non è disponibile per i pazienti in modo adeguato. Credo che ci dovrebbe essere, questo non avviene solo naturalmente per i medici di famiglia, avviene anche negli ospedali dove c'è pieno di informatori che si appostano nella speranza di poter parlare con il primario, con gli assistenti, per in qualche modo far presenti i loro prodotti. Senta, succede spesso in Italia che poi ognuno dice non è colpa mia, la responsabilità non è mia, però cos'è? Ci sono troppi elementi sbagliati nel sistema del controllo del sistema sanitario nazionale, per cui ci si può infilare come si vuole, le responsabilità poi non ci sono mai e alla fine ci sono delle truffe colossali. Questa è di 10 milioni di euro, pare, quella in Sicilia di cui parleremo anche tra poco, dei finti pazienti morti, di 50.000 morti, è almeno di 14 milioni di euro. Poi ci sono le regioni, appunto, che hanno i crack finanziari, e ce n'è più di una già in Italia dal punto di vista della sanità. Sì, che non dipende soltanto dai farmaci, ma dipende, no, per anche carità, da tanti altri aspetti. Però è certo che ci sono delle situazioni che sono molto difficili da comprendere, differenze di prescrizioni fra regione e regione che vanno anche del 50%. Insomma, è molto difficile capire perché, non so, la Campania o credo anche il Lazio debbano spendere molto di più del Friuli o di altre regioni. Questo, diciamo, è un'anomalia, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché la patologia è più o meno uguale e non è che ci siano delle differenze marcate da quel punto di vista. Non ci si ammala di più in una regione rispetto che un'altra. Poi, quando il problema dei fondi della sanità che mancano e ci sono le regioni appunto che crollano, succede come scriveva di recente il Sole 24 Ore, che in Campania, ne abbiamo parlato anche a Radio 24 nel nostro GR di recente, in Campania succede che diversi pazienti che devono essere sottoposti a terapia chemioterapica per mancanza di medicinali indispensabili, perché non ci sono i soldi per comprarli, vengono dagli ospedali rimandati indietro. Dottor Corti, come detto responsabile di comunicazione della Federazione Italiana Medici di Famiglia, certo la premessa che fa fatta sempre è che se ci sono delle responsabilità di alcuni medici verranno accertate, così come di alcuni farmacisti verranno accertate, così come di alcuni informatori scientifici e così via verranno accertate. Però i medici di famiglia, spesso il dito viene puntato anche su di voi. Com'è possibile, per esempio, avere negli elenchi molti pazienti che risultano morti e per i quali ovviamente i medici prendono dei rimborsi? Guardi, questa è una situazione molto complessa e cercherò comunque di spiegarla in due minuti. Intanto però il professor Garattini ha introdotto un elemento che non ha niente a che fare con l'argomento di cui dobbiamo discutere oggi. Il problema di questo scandalo dei 10 milioni di euro è un problema legato fondamentalmente a un episodio di criminalità comune. Il professor Garattini ha sollevato il problema dell'informazione scientifica ed è questo è un altro problema aperto e quindi a mio parere andrebbe affrontato in un altro momento. Intanto le posso dire questo, che se questo scandalo, tenendo conto di quello che è stato raccontato dal collega della FIMGE del Lazio, è venuto alla luce proprio grazie all'intervento dei medici di famiglia, che nella Commissione per la appropriatezza di questa ASL di Roma hanno valutato delle anomalie, e quindi hanno cominciato a far partire le indagini e quindi a chiedere come mai queste cose fossero successe. Allora, l'altro problema legato al fatto che in Campania si spende di più rispetto ad altre regioni. Non è un problema solo legato alla sanità, è un problema legato al funzionamento di tutta la pubblica amministrazione, che in alcune realtà è organizzata e ordinata, in altre realtà ha bisogno ancora di un sostegno molto importante, ha bisogno di essere messa in ordine. Allora, mi diceva prima il collega di Roma del fatto che esiste questo sistema computerizzato in Regione Lazio per cui tutte le ricette vengono fotocopiate e quindi c'è la possibilità di valutare chi veramente dei medici ha in carico quei farmaci che sono stati effettivamente prescritti. Allora, io lavoro in un'altra regione, io lavoro in Lombardia. Noi, come alcune altre regioni, cito il Friuli, l'Emilia Romagna, in parte la Toscana, la Valle d'Aosta, abbiamo un sistema informatico che nel momento in cui prescriviamo un farmaco subito viene registrato dopo pochi secondi nel server della regione. Lei però sa, dottor Corti, che c'è anche un'inchiesta in Lombardia, per esempio, di iperprescrizioni, accuse di iperprescrizioni, cioè avere fatto troppi esami. Le iperprescrizioni stanno cadendo tutte, guardi, stanno cadendo tutte. Assolutamente, perché da questo punto di vista sono ferratissimo. Le assicuro che in alcune situazioni questa iperprescrizione, quindi una variabile del 20% in più rispetto a quello che è la prescrizione media, verrà assolutamente smontato. Se ci saranno delle responsabilità, e potranno essere, ma queste coinvolgeranno penso 10-15 medici, e dire che in un sistema come il nostro, che ha 10-15 medici che hanno commesso degli errori su 8.000 medici, io direi che la nostra categoria ne esce pienamente. Sì, però come mi faccia fare la parte, se vuole, dell'accusa, come è possibile stabilire un'iperprescrizione? Voglio dire, perché poi lì si entra nel campo dell'aleatorietà. Un medico dice, secondo me, questo è un po' come la questione della medicina difensiva. Un medico dice, questo paziente ha bisogno di fare questi esami. E chi va a contestare? Chi può dire, che non è così? Però lei adesso ha introdotto un altro elemento. Lei sta parlando di diagnostica, mentre l'iperprescrizione va sul farmaco. Va bene, voglio dire, ma il concetto è, se vuole, sono due cose differenti, lo so bene. Guardi, ma il concetto è che alla fine c'è il rischio poi di una truffa finale, ecco. Sì. Una truffa dal punto di vista economico. Le assicuro che quando finiranno le indagini della Corte dei Conti, di truffe ne verranno fuori proprio poche. Il problema è questo, che sta emergendo in alcune situazioni, mi pare in provincia di Mantova o di Brescia, addirittura dove c'è stato un iperconsumo di farmaci antinfiammatori, e lì da un punto di vista proprio di popolazione ci sono molti pazienti che lavorano in condizioni che favoriscono i disturbi reumatici, per cui paradossalmente questa iperprescrizione diventerà un campanello d'allarme per una situazione sanitaria che dovrà essere ben controllata. Le dico, come si fa a dire che un paziente, che un medico è un iperprescrittore? Certo, se mediamente un medico prescrive nella nostra regione un X e c'è un altro medico che prescrive X moltiplicato 2, questo fa accendere un LED luminoso e dice qui c'è probabilmente qualche cosa che non va. Io, che sono peraltro anche segretario regionale della FIMG di questa regione, ho sottoscritto un contratto di collaborazione anche con la regione che permette a livello dei distretti di analizzare la prescrizione. Allora le spiego, se nella mia elenco assistiti o dei pazienti che sono affetti da patologie particolarmente gravi, che sono affetti da patologie tumorali che comportano anche una prescrizione di farmaci particolarmente costosi, questo viene valutato all'interno del distretto, niente, dicono grazie che ha prescritto questo farmaco, capito? Sì, no, ma su questo è chiaro. Io vorrei per un attimo tornare dal professor Garattini, anche perché il professor Garattini, quando c'è la pausa pubblicitaria, ci deve lasciare. Professore, lei è uno che lavora nel campo del farmacologo, lavora nel campo dei farmaci, ma è uno che da questo punto di vista non ha molti peli sulla lingua a dire, per esempio, che moltissimi dei farmaci che sono in circolazione sono assolutamente inutili, cioè nel senso sono dei doppioni rispetto a farmaci che già ci sono. Questo può alimentare questo tipo di truffa? Certamente, diciamo, quello, lasciamo perdere la parte diciamo, che riguarda il crimine, che quella la giudicheranno altri. Quello che bisogna dire, credo che è difficile da smentire, è che tutto il sistema tende ad alimentare un aumento dell'impiego dei farmaci e i medici sono al tempo stesso i responsabili, ma tante volte anche le vittime, perché sono come qualsiasi altra persona, tutti noi siamo vittime della pubblicità che arriva attraverso la televisione. Non è che la quello che fa la pubblicità alla televisione sia innocuo, finisce per influenzare i comportamenti della gente. Così l'eccesso di pubblicità che esiste nei confronti dei medici finisce per influenzarne le prescrizioni, molte volte anche in buona fede. Basti vedere per esempio la prescrizione di farmaci antidepressivi, basta vedere la prescrizione di farmaci ansiolitici, che molto spesso è ingiustificata, ma è il frutto dell'idea che se si mette in testa a uno che quel farmaco va bene, che è appropriato, che funziona, eccetera, è logico che anche in buona fede si cerchi poi di prescriverlo. Il problema è che bisogna cambiare molto il sistema, cioè e alimentare molto di più la informazione indipendente. Oggi c'è una grande asimmetria nella informazione, è una informazione tutta di parte. Bisogna aumentare l'informazione che invece è in qualche modo indipendente per controbilanciare, e allora probabilmente le prescrizioni miglioreranno e molti farmaci non verranno più prescritti perché di fatto non hanno un grande significato. Ma tra l'altro voglio dire che ci siano tanti pazienti morti che risultano per esempio ancora nelle liste, poi adesso cercheremo appunto di capire anche nella seconda parte, anche andando in Sicilia con quello, l'inchiesta che è venuta fuori dalla Guardia di Finanza di recente, 51.000 rotti pazienti morti ancora nelle liste dei medici di base. Poi bisognerà capire la responsabilità, e questo è una cosa successiva. Il dato di fatto è che queste persone pesano dal punto di vista economico circa 70-80 euro lordi a persona, e ovviamente vanno pagate, e chi le paga? Le paghiamo noi, questo è il dato di fatto. Tra l'altro un'altra intercettazione: lo so che Marco, sempre di quest'ultima inchiesta, me lo deve utilizzare il flugolazolo, un prodotto farmaceutico ovviamente, almeno 20 al giorno me ne deve fare. Che cos'è, professor Garattini, il flugolazolo? È un farmaco antimicotico, credo, un farmaco che agisce sulla un qualcosa che costa, un qualcosa che costa. No, beh, almeno 20 al giorno me ne deve fare di queste prescrizioni, diceva una delle persone. Esattamente, questa è una situazione illecita che non si può giustificare evidentemente, però è abbastanza facile poi fare queste prescrizioni. Se si ha soltanto il sospetto che accanto per esempio a una infezione batterica ci possa essere anche una infezione da funghi, e poi è difficile andare a vedere come stavano effettivamente le cose dal punto di vista di quello che serviva l'ammalato. Ma questo sicuramente. Allora io ricordo 800 24 00 24, il numero per intervenire in diretta, viva voce radio24.it invece per quel che riguarda le mail. Ci fermiamo per qualche minuto per la pubblicità. Intanto voglio ringraziare, visto che ci lascia, il professor Silvio Garattini, che è direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano. Voglio salutare, ci ha raggiunto l'assessore alla sanità della regione Sicilia, Massimo Russo. Assessore, buongiorno. Buongiorno, tra poco sono da lei. Un'ascoltatrice, Anna da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io in relazione al quesito che lei ha rivolto poc'anzi, al suo ospite, l'ultimo signore che ha parlato con noi del nome, che puntualmente è stato evaso, perché spesso succede che le risposte non vengono fornite. Sì, forse ho già capito, infatti stavo per tornare alla carica. Era una domanda molto precisa: come mai i medici di famiglia continuano ad avere nelle loro liste i pazienti morti? Allora io dico questo non deve essere un onere del medico di famiglia, perché il medico di famiglia non è che può mettersi a fare i censimenti, muore, né a carico del cittadino. Io non devo avere nessuno. Allora sicuramente a carico del cittadino, e neanche a carico del medico. Semplicemente sono stati spesi anche milioni e milioni di euro per quanto riguarda i sistemi di interscambio, quindi l'informatica deve fare molto al riguardo. Siccome c'è un totale scollamento tra i sistemi informativi comunali, quindi la pubblica amministrazione nell'accezione più pura del termine, e le regioni, che cosa succede? Che al medico non arriva nessun tipo di informazione di questo genere. Basterebbe che funzionassero questi sistemi, per cui dall'anagrafe, quindi comprensiva dello stato civile, arrivasse l'informazione. Ma certo, no? Allora, se però non lei... viene fatto, ma ci sono milioni e milioni di euro sono stati messi su questi progetti. Ma come no, come no, di informatizzazione delle ASL. Grazie Anna. Allora, poi do la parola appunto al dottor Corti che le replica, e così mi aggancerò all'assessore Russo per capire cosa è successo, l'ultima inchiesta in Sicilia. Allora, il meccanismo, le regole sono abbastanza semplici: il decesso entro le 48 ore successive viene segnalato all'anagrafe. Automaticamente la segnalazione dovrebbe arrivare all'azienda sanitaria, che in tempi brevi l'azienda sanitaria ha il compito di cancellare il nome dall'elenco del medico. Una procedura banale. Sta di fatto che non si sa perché in questo tragitto che dovrebbe essere tutto telematico, qualcosa non funziona e i morti continuano a vivere e si continua a pagare per quelli. Dottor Corti, i medici di famiglia so che dicono la responsabilità nostra proprio non c'è, è proprio l'ASL che ci deve comunicare questa cosa. Però davvero non sapete niente, davvero potete avere negli elenchi pazienti morti e non accorgervene? Pronto? Sì. Sì, mi sente. Senta, è sempre un problema legato alla quantità, nel senso che io se avessi 800 pazienti nel mio elenco su 1500 che non vedo mai, allora mi sospettisco indubbiamente e vedo che c'è una cosa di questo tipo. Assolutamente, se si tratta di 1, 2, 3, 5 pazienti può anche darsi che me ne accorga, che non me ne accorga, perché tenga conto che i nostri pazienti non sono soggetti ricoverati, diciamo, in una struttura, sono solamente delle persone che abitano intorno al mio studio. Allora, io ho una percentuale di pazienti che vengono da me con grande frequenza, sono circa un 20%, ho anche una percentuale di pazienti oltre il 40% che arrivano da me una volta ogni 3, ogni 5 anni. D'accordo, però sui grandi numeri com'è possibile, voglio dire, che non so, in un paesino di 2000 anime magari il medico è andato anche al funerale della paziente che è morto. Se da questo punto di vista, se dovessi avere nei miei elenchi 500 persone e mi accorgo che assolutamente 500 di queste persone, che poi molte volte sono anche pazienti cronici, sono pazienti anziani, sono pazienti che una volta vedevo e poi improvvisamente non vedo più, certo che qui mi scatta anche un campanello, in qualche modo una segnalazione alla ASL la faccio. E questo, le assicuro, per esempio nella mia realtà non è così semplice. Io, come le dico, io lavoro in provincia di Milano, non solo quando un paziente decede, ma quando un paziente, per esempio, decide di comprarsi una casa in Liguria e cambia residenza per avere le agevolazioni fiscali, questo continua a venire da me e a volte mi trovo in una situazione dove ho 30-40 pazienti che continuo a vedere e improvvisamente mi arriva dalla ASL la segnalazione che questi non sono miei pazienti da un anno perché due. Non li hanno... Comunque, vede, è lo stesso è quello che è successo in Sicilia, perché a fronte di 50.000 cittadini che sono deceduti e che continuavano ad essere pagati ai medici di famiglia, mi risulta, ci hanno fatto una segnalazione i nostri colleghi di quella regione, poi l'assessore Russo casomai lo confermerà, esistono addirittura 100.000 pazienti che hanno perso il loro medico di famiglia perché o è andato in pensione o oppure è deceduto. Questi cittadini non sono stati assolutamente sollecitati dalla ASL ad iscriversi da un nuovo. Allora, veniamo. Ecco, ma qui c'è un problema, mi scusi, fondamentalmente anche di tipo di finanziamento. Allora, noi siamo pagati a tariffe sociali, no? E a quota capitaria. Alla fine la nostra remunerazione tiene conto del fatto che un X di risorse basso viene dato al medico per ogni cittadino che è iscritto nei propri elenchi. Questo è basso, ma diventa per certi aspetti soddisfacente nel momento in cui la numerosità dei pazienti che sono iscritti nei nostri elenchi, compresi quelli che non vengono mai da noi, fa massa critica e ci permette di avere un finanziamento che ci permette di andare avanti. Questa cosa, sappia che da un punto di vista macro in Sicilia alla fine diventa positivo in termini economici per il servizio sanitario. Allora, la fermo qua, perché così, visto che abbiamo nominato tante volte la Sicilia, abbiamo l'assessore regionale alla sanità Massimo Russo. Assessore, poi magari buongiorno, eccoci qua, io la prendo poi dalla coda, cioè da quello che fa, poi mi permetterà nell'ultima parte di Via Voce voce, di parlare anche un po' di quella che è la sua figura, che magari non molti in Italia conoscono, cioè della sua professione che fa ora e della professione che faceva fino a qualche tempo fa. Allora, 51.287 pazienti morti ancora iscritti negli elenchi delle ASL siciliane e dunque a carico venivano pagati ai medici di famiglia i rispettivi contributi. Com'è possibile? Siamo una regione virtuosa, assicuriamo l'assistenza anche ai morti, verrebbe da dire. È il frutto, diciamo così, della cattiva organizzazione. Giustamente lei ha utilizzato un condizionale, una carta, un documento, la cessazione della vita di un soggetto dovrebbe passare dall'anagrafe all'ASL in pochissimo tempo, magari con una procedura informatizzata, poi l'ASL dovrebbe immediatamente cancellare l'assistito, e invece questo non accade perché c'è una cattiva disorganizzazione alla quale tuttavia stiamo mettendo mano, perché da gennaio in Sicilia partirà la nuova anagrafe degli assistiti e in tempo reale tutto ciò si verificherà, perché al momento del decesso, nel momento in cui verrà comunicata all'anagrafe, immediatamente sarà cancellato il nominativo dall'anagrafe all'assistito, un'anagrafe che è collegata anche al Ministero delle Finanze, e come si sa il Ministero delle Finanze difficilmente non prende atto di queste situazioni. Senta, 14 milioni pare che sia l'entità di questo tipo di truffa, o truffa, insomma, a volte magari non è truffa, è proprio un qualcosa, qualche cosa che si inceppa nel meccanismo di comunicazione. Sta di fatto che poi alla fine lo paga il cittadino, in una regione, la Sicilia, come in tante regioni, dove il deficit sanitario è altissimo. Guardi, diciamo le cose come stanno, nella cattiva disorganizzazione, nella cattiva organizzazione, quindi nella disorganizzazione è più facile che ci possano essere situazioni che costituiscono reato. È il caso evocato da chi mi ha preceduto: se il medico ha contezza della morte del paziente, è un dovere etico, oltre che professionale, comunicare l'avvenuta cessazione della prestazione, ma questo magari non accade perché appunto non ci sono i controlli, perché non c'è un sistema che fa risaltare immediatamente. Allora l'assessore regionale della sanità siciliana non può che dare direttive, attivarsi per effettuare i controlli. Non bisogna criminalizzare, perché in questa situazione la responsabilità in primo luogo è appunto di chi deve organizzare e non ha organizzato. Dobbiamo anche dire, ringraziare la polizia giudiziaria, credo che questo sia stato il frutto di una penetrante attività svolta dalla Guardia di Finanza, che ha messo in risalto questo buco, questo spreco enorme che appesantisce ancora di più il buco che grava sulle nostre casse regionali e che ci ha portato alla procedura del piano di rientro. Come sapete, la Regione Sicilia è una delle regioni sottoposta al piano di rientro per recuperare questo deficit che viaggia al 10% del fondo sanitario, cioè 800 milioni di euro sugli 8 miliardi che costituisce il fondo. Perché altrimenti c'è il rischio appunto del commissario. Mi lasci dare del commissariamento, voglio dire, della sanità. Mi lasci dare un ascoltatore, poi torno da lei. Paolo da Cremona, buongiorno. Buongiorno a tutti. Di che? Io sono un informatore medico-scientifico, volevo anche spezzare un po' la lancia a favore dell'industria farmaceutica, che è vista tanto quanto come valore come l'industria del tabacco, l'industria delle armi, cosa che penso non sia corretto. Qua, no, non qui, voglio dire. No, in generale. Ah, va bene, dica. Non sicuramente qui, anzi vi seguo, vi apprezzo per quello che fate. Quello che voglio dire è che è vero che ci sono alcune persone probabilmente che sbagliano, sia nell'ambito dei medici che nell'ambito delle industrie farmaceutiche, ma parliamo probabilmente, come in questo caso che è emerso, di situazioni non tanto di aziende farmaceutiche multinazionali, ma probabilmente di aziende che producono generici, che spingono per l'abuso forse del farmaco. Però, come ha detto bene il dottor Corti, che non conosco ma che apprezzo per quello che ha detto stamattina, Ci sono molti medici e molte aziende farmaceutiche che lavorano positivamente. Ma per carità, ma Paolo, guardi, ma lei fa bene a spezzare una lancia, giusto anche per il lavoro, per la categoria insomma, che rappresenta in questo caso, ma che la stragrande maggioranza sia onesta, ma questo l'ho detto in premessa, lo ridico e lo ribadirò se qualcuno me lo richiederà. Però il dato di fatto è che c'è un sistema nel quale spesso non ci sono neanche le colpe, perché davvero, magari non è che non si riescono a trovare, davvero non ci sono le colpe, sono burocrazie, sono persone che non comunicano, sistemi che non comunicano, risultato è che paghiamo noi, anche lei, Paolo, anche gli ospiti che sono qui, con le tasse, quando ci sono queste truffe al sistema sanitario nazionale. Assessore Russo, quando lei ha accettato l'incarico che le ha proposto il presidente Lombardo all'assessorato alla sanità, ha detto ci sono dei momenti in cui bisogna sporcarsi le mani mantenendo puliti il cuore, il cervello e credo di recente ha aggiunto anche il portafogli in un'altra intervista. Massimo Russo fino a qualche tempo fa, fino a poco fa, è stato un procuratore antimafia, primo lavoro di procura a Marsala a fianco a Paolo Borsellino, tanti anni al contrasto e al cercare di sconfiggere la mafia. Perché ha accettato questo nuovo incarico? Beh, per continuare quel percorso che avevo intrapreso, dare un contributo alla mia terra, credere che la Sicilia possa riscattarsi, possa migliorarsi. Lo faccio questo nuovo lavoro con grande umiltà, consapevole delle enormi difficoltà che incontro, ma a un certo punto della vita ci si rende pure conto che forse bisogna impegnarsi più direttamente nella costruzione di una politica che guardi all'interesse del cittadino, all'interesse generale. Il presidente Lombardo, quando mi fece questa proposta, premetto che io non conoscevo il presidente Lombardo, mi lasciò molto stupefatto, era una scommessa enorme, rischiosa, ma sa, in certi momenti bisogna anche saper cogliere le sfide. Ed è una sfida non personale, ma una sfida di una Sicilia che vorrei rappresentare, quella migliore, quella buona, quella che crede nel cambiamento, quella che guarda all'Europa e che ritiene che abbia le qualità, le possibilità, l'intelligenza per cambiare. Allora non potevo, come dire, non accettare per non perdere poi, l'ho detto anche, il diritto di critica. Credo che si possa e si debba criticare quando poi ci si impegni fattivamente con azioni concrete, sporcandosi le mani, perché gestire il sistema sanitario siciliano significa affondare talvolta le mani nella melma, nel coagulo di interessi più o meno leciti, nell'ambito di un sistema che non risponde certamente all'interesse del cittadino e alle sue esigenze di salute. Ma qual è il messaggio di dover chiamare un procuratore per tanti anni in prima linea nella lotta alla mafia per gestire la sanità siciliana? Vuol dire, le faccio la domanda banale da uno che insomma vive a Milano, ma qualche giornale lo legge, un po' di attenzione alle ultime recenti cronache anche della precedente regione Sicilia, sappiamo com'è caduto, insomma il presidente Cuffaro eccetera, che vuol dire che c'è l'infiltrazione della mafia e ci vuole un procuratore antimafia per mettere a posto i conti della sanità in Sicilia? Non credo che sia stato questo o soltanto questo lo scopo del presidente Lombardo, perché non si può criminalizzare il sistema, perché se si dice che tutto è mafia, niente è mafia, e allora io colgo l'opportunità che mi viene data per ringraziare i medici, gli infermieri, gli operatori che ogni giorno con grande sacrificio, con spirito di abnegazione, in un sistema che ne mortifica la professionalità riescono a dare il meglio di loro stessi. È ovvio, perché non lo dicono i giornali ma lo dicono le indagini giudiziarie, lo dicono le sentenze, che il sistema sanitario che gestisce 8 miliardi di euro, cioè vale a dire 16 mila miliardi delle vecchie lire, è oggetto di appetiti anche da parte della mafia, come le indagini e i processi hanno dimostrato. Ma io non sono venuto qui per fare il magistrato, più semplicemente ritengo, ma me lo ha detto chiaramente il presidente Lombardo, per quando gli ho detto: presidente, ma lei da me che vuole? Voglio imparzialità, rigore e seria applicazione delle regole. Io sono venuto qui per portare un metodo, il metodo delle regole, perché le regole, se ci sono, devono essere applicate, e devono essere applicate nei confronti di tutti. Noi parliamo di controlli, ma sa quante norme, quante circolari parlano di controllo? Il problema è l'applicazione concreta delle norme, il problema è capire i settori in cui mancano le norme e produrre le norme. Il tema, a mio avviso, si riduce sempre su questo tema fondamentale, che verso il quale non credo soltanto i siciliani, ma insomma un po' gli italiani hanno una certa allergia. Senta, ma lei, voi temete il commissariamento oppure questo piano di rientro lei confida di farcela? Dunque, in 6 mesi è stato fatto, ma lo dicono le carte, lo dicono la validazione ministeriale, l'ha detto anche il presidente Berlusconi in una lettera, al ministro Sacconi in più occasioni. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per rispettare il piano di rientro, che è stato sottoscritto nel 2007, ma forse con qualche riserva mentale, perché soltanto adesso è stato applicato con il rigore. E questa applicazione sta creando dei problemi, perché quando bisogna mettere mano a certi sistemi, ovviamente le riforme, i provvedimenti amministrativi urtano certi apparati, e da qui le reazioni che ci aspettavamo. Noi proseguiamo verso questa strada di riforma. Vorrei, come dire, che il rigore che ci viene imposto da Roma fosse condiviso anche qui in Sicilia da tutti, da tutta la maggioranza, per un'azione molto difficile, molto complessa, che ci deve portare necessariamente a risanare i conti, perché il tema non è quello del si può fare, ma si deve fare se vogliamo salvarci da un baratro finanziario. Assessore, dire ai telespettatori che la Sicilia, i cittadini siciliani, sì, pagano più tasse rispetto agli altri, perché con l'IRAP e con l'IRPEF espresse nella misura maggiore dobbiamo sanare questo deficit. Se invece qui magari si strumentalizza il taglio dei posti letto, che non interessa un fico secco ai cittadini, ma interessa invece a qualcuno e a quella politica che non vuole il cambiamento, perché attraverso il sistema dei posti letti si mantengono i primariati, le occasioni di lavoro. Noi non vogliamo licenziare nessuno, ma dobbiamo riorganizzare il sistema per dare qualità alle prestazioni. Noi vogliamo avvicinare il sistema ai cittadini. Noi abbiamo una mobilità che ci costa 250 milioni di euro, che è il segno più palese, più evidente del cattivo funzionamento del sistema sanitario siciliano. I cittadini vanno fuori, noi li dobbiamo riportare in Sicilia. Assessore, ancora 2 domande e poi devo chiudere. C'è troppa politica nella sanità e in Sicilia? Dobbiamo essere molto chiari. Io sto facendo politica pur essendo un tecnico, la politica che guarda gli interessi generali e al bene comune. Quella a cui allude lei è una politica bassa, clientelare, spesso assistenziale, che tutela interessi corporativi di singoli e che non si innalza a guardare la Sicilia e gli interessi dei cittadini siciliani nel loro complesso. Mm. Mi permetto un'ultima domanda molto molto personale, se vuole mi risponda. Io l'ho detto in apertura, lei ha iniziato a lavorare come procuratore con Paolo Borsellino, insomma una figura di cui non dobbiamo aggiungere granché di più. So che adesso la figlia di Borsellino, Lucia, lavora nel suo staff all'assessorato. Perché? Perché c'è un progetto che forse sfugge alle umane cose. Nemmeno io avrei pensato nella mia vita di venire a fare l'assessore per la sanità in questo modo, in queste situazioni. E invece è accaduto, ed è accaduto anche, ed è una cosa bellissima, meravigliosa, che abbia incontrato Lucia Borsellino, che io conobbi nel 90-91, quando incontrai Paolo Borsellino, ed era inevitabile che venisse a lavorare con me e fosse una delle colonne portanti del mio staff. Va bene, io mi fermo qui, la ringrazio molto, così come ringrazio gli altri ospiti. Nell'ultima parte, insomma, io ne ho approfittato perché lo voglio ringraziare l'assessore Russo, no? È una persona, insomma, che, ripeto, non è per vantarmi di niente, ma insomma non parla molto, molto spesso, quindi lo ringrazio per questo suo intervento, per cui insomma volevo anche dare uno spaccato di questa figura di una Sicilia che da questo punto di vista forse può davvero risollevarsi. Speriamo, le auguro ovviamente buon lavoro, così come ringrazio ringrazio gli altri ospiti, abbiamo parlato e parleremo ancora di truffe al sistema sanitario nazionale, che purtroppo sono lì in agguato e ci vanno a toccare i portafogli. Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli in redazione, Giorgio Matè in regia, con Viva Voce ci ritroviamo domattina.